24 di Giovanni Minoli. Eccoci, sono le 9:17, 30 secondi. Naturalmente continuiamo anche noi il racconto di quello che è capitato a Bruxelles. Mario, ma in un momento come questo, l'aeroporto di Bruxelles, dopo tutto quello che è capitato, non dovrebbe essere il posto più sorvegliato del mondo? Questo è il punto, uno dei punti che si apre subito in questa giornata che si annuncia drammatica, perché Bruxelles era appunto al centro di indagini internazionali da tempo, ovviamente, e l'aeroporto dovrebbe essere, come giustamente, lo snodo di tutto. Come giustamente osservavi tu, un luogo non sorvegliato, ma ultra sorvegliato. E poi data la sua natura, che come abbiamo sentito nel giornale radio, una hall grandissima da cui partono tutti i canali di partenza. Come sanno tutti i nostri ascoltatori che viaggiano, non è semplicissimo introdurre dell'esplosivo poi in un aeroporto, perché ci non sono dei varchi, dei passaggi, pare anche armi, perché qua la dinamica che è stata descritta finora è un po', diciamo, a fasi alterne. Si dice due esplosioni, poi in realtà è venuto fuori adesso appunto che si sono sentiti i colpi di mitra, è un uomo che urlava, sicuramente hanno sparato. Sono modalità che ricordano altri attentati del passato di cui noi non abbiamo più memoria, e riguardano, guarda caso, gli aeroporti. Certo. Sono due attentati avvenuti in Italia, li ricordo, uno era del 17 dicembre del 73, l'attentato di Fiumicino, 32 morti e 15 feriti, era un commando di Settembre Nero, quindi no news si vorrebbe quasi dire, perché si ripetono queste cose, e l'altro era del 27 dicembre dell'85, bombe mitra, anche stavolta era un gruppo di Bunidal, 16 morti e 100 feriti. Gli aeroporti, ecco perché, no, la storia ci insegna, dovrebbero essere ipersorvegliati, e Bruxelles in questo caso ancora sorprendentemente invece pare essere sguarnita. Qua si riapre poi tutto il dibattito sull'intelligence, e anche sul perché, sull'intelligence prima di tutto, e poi sul perché il Belgio è un luogo nel quale diciamo è un covo diffuso. Beh, io posso dare le ragioni storiche sono parecchie. Dei dati. Allora, i dati sono molto interessanti. Il Belgio, fino a un anno e mezzo fa, questi sono i dati forniti dal procuratore, dal ministro degli interni belga, Jean Bon. E il Belgio, fino a un anno e mezzo fa, praticamente era una fucina di foreign fighters, cioè di combattenti, esatto, che andavano dal Belgio verso la Siria e l'Iraq. Erano praticamente 15 combattenti al mese, quindi immaginate che cosa c'è dietro. Le indagini lo hanno ridotto in questo periodo a 5 al mese secondo le loro statistiche, ma parliamo di una fabbrica di jihadismo molto molto molto attiva. Sì. Brangelo, dimmi. Il Belgio paga ancora una volta un prezzo che poi paga quasi tutto l'Occidente, di voler sempre aiutare come alleati i peggiori finanziatori del terrorismo. Tant'è vero che la scelta è stata sempre quella di appoggiarsi all'area degli Emirati, dei Sauditi, che sono quelli che poi in sostanza, da denunce ben precise, a cominciare da quella fatta da Vladimir Putin, sono poi quelli che hanno foraggiato, finanziato e sostenuto il terrorismo. E in Belgio soprattutto c'è stata una concentrazione forte di interessi commerciali, economici, finanziari, proprio appoggiandosi a quella realtà. E bisogna ancora riprendere, nata con Re Baldovino, nata con Baldovino, nata su patti commerciali che hanno determinato questo cortocircuito, questi insediamenti. Quindi, per semplificare, purtroppo alleandosi con coloro i quali scelgono di finanziare e foraggiare il terrorismo. Vorrei dare anche un altro elemento. Tant'è vero che tutte le vicende su cui noi paghiamo il prezzo di sangue, il tributo, dalla Francia al Maghreb, a tutta l'area balcanica, passa sempre attraverso il patto di ferro dell'alleanza tra l'Occidente e i finanziatori dei terroristi, cioè Emirati, Sauditi e tutta la congrega che col petrolio ha stabilito questo ricatto. No, volevo dire, a proposito del nostro, delle considerazioni che abbiamo fatto sulla sicurezza dell'aeroporto, che cominciano ad arrivare soprattutto via Twitter, via social, le immagini, devo dire così, la mia prima impressione, avendo purtroppo seguito tante di queste vicende, è che l'esplosivo sia ad alto potenziale comunque, perché la devastazione è tanta. C'è un'altra esplosione ancora lì dal giornale radio? Sì, allora, pronto? sì, buongiorno. Sì. Ovviamente sono notizie che vanno tutte confermate e prese con le pinze, ma dopo le due esplosioni all'aeroporto sarebbe stata segnalata un'esplosione anche nella stazione della metropolitana di Molenbeek, quindi sempre a Bruxelles. Ovviamente aspettiamo prima di avere la conferma su questa ultima notizia, su quest'ultima informazione. Quando ne avremo, vi richiederemo la linea. Beh, se così fosse abbiamo un'ulteriore conferma del quadro che stavamo dipingendo, e non solo, ma saremo in presenza ancora una volta di una serie di attacchi coordinati, come fu a Parigi, come fu a Londra e come in altre capitali, a Madrid e in altre capitali europee. Ripeto, le immagini che arrivano sono molto eloquenti, perché insomma sicuramente hanno usato esplosivo ad alto potenziale. Vabbè, noi intanto, in attesa naturalmente, siamo sempre disponibili, sono 9:23, 35 secondi, disponibili a ogni tipo di breaking news. Intanto parliamo di Tarragona, parliamo della Spagna, delle 7 studentesse italiane morte che facevano parte del progetto Erasmus, un progetto importante, una delle cose migliori per i nostri ragazzi in Europa, un progetto che ha quasi 30 anni, che ha toccato cifre record, sono più di 3 milioni i giovani che hanno beneficiato del progetto dall'87 a oggi. In più, grazie al nuovo progetto dell'Erasmus Plus, che si occupa anche di tirocini, nel 51% dei casi dopo il tirocinio i ragazzi vengono assunti. Insomma, Mario, l'Erasmus forse è uno dei più grandi successi dell'Europa dei popoli, diciamo così, invece che l'Europa delle istituzioni. In queste ore drammatiche poi, no, è ancora più significativo. Certo. Schengen è insieme l'Erasmus, cioè la circolazione di beni, di servizi, di persone e quindi di idee, e quindi di libertà, cioè la libertà che in queste ore qualcuno vuole sopprimere. Ecco, questa generazione Erasmus, Pietrangelo, è in qualche modo sembra quasi una risposta, pur nel dolore di questo incidente, una risposta attiva nella creazione di un'Europa dei popoli invece che solo delle istituzioni, così. Però è qualcosa che c'è sempre stato. Abbiamo pianto la scomparsa di Umberto Eco, che è stato quello che più di ogni altro ha saputo raccontare come i chierici vaganti, da sempre, dal Medioevo fino ai nostri giorni, hanno saputo unire. Molto spesso attraverso i percorsi della sapienza si stabilisce un'unità che la politica poi attende i secoli per arrivarci. Si incontravano già da prima, ancora prima di Erasmus, tant'è vero che si chiama Erasmus infatti. Mario, c'è qualche aggiornamento? No? Ma continuano a piovere le notizie sulla esplosione della stazione della metro in Malbec. Quindi intanto adesso noi andiamo avanti con questo ragionamento che parte dall'Erasmus e che però riapre anche un'altra questione, una questione importante, che è quella della sicurezza. L'abbiamo vista nelle gite scolastiche, nella fattispecie si è trattato di un colpo di sonno naturalmente, ma spesso accade che nelle gite scolastiche ci sono problemi sui mezzi, i pullman, gli strumenti con i quali i nostri ragazzi partono. Ecco Mario, tu come padre, i tuoi bambini quando partono in gita, sei tranquillo? Ma devo dirti che l'altro ieri proprio dovevo decidere. Tu hai una moglie che fa l'insegnante, sì. Quindi hai contatto continuamente con questi problemi. Sì, sì, e poi come papà devi sempre decidere se mandare o no i figli. Esatto. Ovviamente li mandi, però insomma ho avuto un retropensiero su questo, da genitore. Sei venuto. E te, Pietrangelo? Sì. Beh, se si tratta di passeggiata scolastica per i bambini nelle scuole inferiori va bene, ma ormai le gite scolastiche sono totalmente inutili. Inutili a maggior ragione perché già ci sono gli studenti che hanno un corredo di dotazione perfino superiore alle possibilità di stipendio degli insegnanti. si possono permettere il lusso di tutti i viaggi possibili. Una volta aveva senso quando aveva proprio il significato di istruzione. Oggi è soltanto la deriva di un mercato turistico in crisi che cerca di raggranellare spiccioli attraverso queste gite scolastiche. Ecco. Sono totalmente inutili e pericolosissime. Ecco, nel frattempo a Genova è stato stilato un vero e proprio vademecum per la sicurezza delle gite scolastiche, un decalogo nato dalla collaborazione tra gli stati generali dei presidi, l'ACI, la Postrada. Sentiamo di cosa si tratta. Il copione dell'avvio di ogni gita di istruzione è noto. I ragazzi arrivano, si aspettano i ritardatari, si caricano i bagagli sul pullman e poi si parte. Eh no, bisogna prima che il professore accompagnatore controlli il mezzo e le condizioni del guidatore, altrimenti non si va in nessun posto. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo. Sono le principali indicazioni giunte nelle scuole d'Italia contenute in un vademecum per viaggiare in sicurezza, pensato proprio per le gite scolastiche, ma che sta sollevando il malumore degli operatori della scuola. Ci scaricano addosso troppe responsabilità, lamentano. Nel testo redatto al Ministero dell'Interno si specifica come prima di partire si dovrà prestare attenzione alle caratteristiche costruttive e funzionali del mezzo di trasporto, formulazione a dir poco vaga, e verificare lo stato di fari, frecce, retrovisori e l'usura dei pneumatici. Durante il viaggio gli accompagnatori dovranno sorvegliare che l'autista non ingerisca stupefacenti o alcol, neppure in modica quantità, e che parli al telefono solo con auricolare o viva voce, come pure dare un'occhiata che rispetti i limiti di velocità. Provvedimenti per garantire la sicurezza dei nostri figli, si dirà, ma dirigenti scolastici e docenti mostrano scetticismo, valutando il vademecum come l'ennesima scartoffia che accumula responsabilità sulle loro spalle, perdendo di vista il ruolo educativo degli insegnanti, che presumibilmente saranno sempre meno disposti a portare gli alunni fuori dalle mura scolastiche. Insomma, Mario, questo gioco del cerino acceso mi pare che sta arrivando addosso agli insegnanti in un modo violento e anche insensato, tutto sommato. Sì, sì, si devono assumere grandi responsabilità e non sempre, diciamo, è adeguato il quadro anche della legge. No, soprattutto è difficile stabilire a chi spetta il compito di verificare e controllare. È difficile immaginare che sono gli insegnanti che vanno a misurare la pressione delle gomme dei pullman, no? Direi. Non c'è dubbio su questo, anche perché poi c'è un presupposto di fondo. C'è il controllo stradale fatto dalle polizie in tutto il mondo che ha questo preciso compito, non è certamente quello degli insegnanti, quello delle maestre. Non bisogna sottrarsi a queste responsabilità. Di Mario? È un aggiornamento anche per gli italiani che sono preoccupati su eventuali connazionali, eccetera. Non è presente nessun aereo dell'Alitalia a Bruxelles e quello che doveva partire stamattina a Roma è stato fermato. Noi abbiamo telefono con noi il senatore del Partito Democratico, presidente della Commissione Industria. Buongiorno, Massimo Mucchetti. Purtroppo gli eventi di questa mattina ci hanno portato a rovesciare la scaletta e quindi gli chiederei se è possibile di essere disponibile domani mattina, perché con lui vogliamo fare il punto della situazione del rapporto tra Mediaset, Vivendi e tutte le evoluzioni nel problema delle telecomunicazioni, che sono naturalmente un discorso che non possiamo fare in 3 minuti. Quindi di Mario. È urgente perché c'è la conferma dell'esplosione alla stazione metro di Malbec e questo è molto importante perché è una stazione vicinissima a tutte le istituzioni europee, per essere da 2 passi da Schuman, certo. Sostanzialmente. E poi hanno scoperto altri ordigni non esplosi. Sì. Non esplosi. Vale. Allora io ringrazio il senatore Mucchetti. Gli chiedo per cortesia se è possibile domani mattina fare quello che avremmo dovuto fare oggi. Pronto? Pronto, ci sentiamo nel pomeriggio e combiniamo. Grazie, mi piacerebbe molto perché è un discorso importante, però noi abbiamo pochi minuti e siamo in diretta con il giornale radio. Ecco, ci sono altri... No, per ora no, c'è grandissima confusione nella capitale. Il governo belga, ovviamente, però lo diciamo perché anche l'ovvio in questi casi va riportato, ha alzato di nuovo il livello massimo di sicurezza a 4, mi pare, sono mi ricordo qual è la scala di, del Belgio, e si cerca di capire che cosa sta succedendo adesso in varie parti della capitale. Vabbè, perché intanto, ripeto, è un attacco multiplo e coordinato a questo punto. Multiplo e coordinato. Intanto diamo ancora la linea al giornale radio per se c'è qualche notizia in più di quelle che stiamo dando. Allora, l'aggiornamento, l'ultimo aggiornamento ci riporta dunque a Rue de la Loire, avete accennato pochi istanti fa, della stazione di Molbec. Per i nostri ascoltatori, Molbec significa stazione della metropolitana lungo quella che è una delle assi principali della città. Rue de la Loire infatti sono 260 numeri civici circa che collegano gli uffici della Commissione, del Consiglio e quindi di fatto il cuore operativo dell'Unione a Bruxelles, e il Rue de la Loire è il luogo delle, degli uffici, delle attività di lobbying, delle associazioni che fanno capo appunto a Bruxelles. Molbec, da non confondere appunto ormai arcinota Molenbeek, che in realtà è un quartiere ben più distante, è dunque un luogo di transito principale per quella che è la capitale europea. La conferma è che ci sono dei feriti, la conferma anche arriva dalle ultime immagini che vengono trasmesse adesso dai media francesi e belgi sulla presenza appunto di un cordone di polizia e che blocca appunto l'accesso del servizio metropolitano della stazione appunto di Molbec. La conferma adesso ultima ai feriti sarebbero tre, ma insomma naturalmente su questo aspetto maggiori dettagli tra poco. A voi la linea. Mix 24 9:38 e 24 di nuovo in diretta per raccontare quello che sta capitando a Bruxelles. Mario, ci sono aggiornamenti? Sì, allora intanto confermata l'esplosione della metropolitana Molbec e poi purtroppo la situazione è lì, metropolitana chiusa, aeroporto ovviamente chiuso. Però è stato appena convocato, ma è una cosa incredibile, è stato appena convocato il Consiglio di Sicurezza Nazionale e ahimè la rete di GSM, da quel che vedo da alcune testimonianze che stanno piovendo adesso in tempo reale, non funziona più. Infatti noi abbiamo provato a contattare, abbiamo provato a cercare Salvini che è là, che è lì, ma non risponde neanche nei suoi uffici di Bruxelles. Pare ci siano dei feriti allo stato attuale, tutto da confermare, ma ho visto adesso delle immagini anche nell'attentato alla metropolitana. La metropolitana va da sé, è stata evacuata. Resta un dilemma secondo me a questo punto gigantesco, perché noi siamo in presenza appunto di un attacco multiplo coordinato in una capitale europea che doveva essere la più sorvegliata del mondo a questo punto. Tu hai altre riflessioni? Abbiamo visto sui siti del Corriere i collegamenti, naturalmente, ma sono collegamenti video diretti con le telecamere dell'aeroporto. Allora, intanto, facciamo una cosa, un attimo di pausa, la canzone di Pietrangelo. E questa canzone è proprio una canzone di chi attraversa la metropolitana, è proprio la canzone dei passeggeri, di chi viaggia, la canzone di chi si muove, ed è la storia di chi attraverso i vetri si vede arrivare il cielo. Potrebbero essere bellissime immagini, ma potrebbero essere anche spaventose. Quando l'ho pensata stamattina presto, immaginavo che ci fosse appunto un Don Chisciotte a guardare attraverso i vetri quello che capita quando arriva il cielo. Poteva essere una storia d'amore, ci auguriamo che diventi sempre una storia d'amore nel viaggio. Mario, intanto tu hai dei... Sì, allora, cari ascoltatori, purtroppo la situazione è molto grave, nel senso che abbiamo un doppio attentato alla metro, sono due le stazioni colpite, adesso comincia a chiarirsi. Molbec è la stazione Schumann, è stata evacuata anche la stazione centrale di Bruxelles, che in questo momento è una città completamente bloccata. Ecco, da Bruxelles abbiamo in diretta l'onorevole Simona Bonafè, che è in Commissione europea. Simona, lì com'è la situazione? Intanto dove sei? Sì, buongiorno Minoli, ma io sono in Parlamento in questo momento e devo dire tra l'altro che insomma c'è abbastanza apprensione qui, anche perché tutti i colleghi sono in aeroporto in questo momento, perché oggi abbiamo i lavori parlamentari. Devo dire che a me è andata bene, perché io sarei dovuta essere lì esattamente a quell'ora in aeroporto, ma è stata rimandata la direzione del PD ieri sera e quindi ho avuto la possibilità di partire la sera ieri. Però devo dirle che qui c'è molta apprensione, molta tensione e molta preoccupazione anche. Ecco, se si prendono delle decisioni, se capita qualcosa, preghiamo di stare in contatto, insomma di sentirci, va bene? Assolutamente, va bene. Assolutamente. Grazie. Arrivederci. Sì. Qui noi parlavamo delle gite scolastiche prima. Giorgio Ragazzini da Firenze ci dice: c'è un non detto dietro le norme sulle gite, alcune sentenze che hanno addossato ai docenti la colpa di alcune disgrazie. Ma, ecco, questo non lo sapevo, ma se è vero si capisce il perché. È lo stesso meccanismo per cui in sala operatoria la responsabilità poi è sempre del chirurgo. C'ho degli aggiornamenti ulteriori. Allora, gli attentati alla stazione della metro sono gravi, ci sono pare dozzine di persone ferite per terra, sono arrivati ovviamente i vigili del fuoco, stanno cercando di soccorrere i feriti, insomma è una situazione che, come potete capire, è di grande caos e rapidissima evoluzione. C'è forte preoccupazione per ovviamente possibili altri attentati a questo punto, come diceva anche l'onorevole Bonafè, collegata al Parlamento. Certo, vabbè, intanto tu hai una tua bolla particolare che avevamo preparato. Ma guarda, si collega molto a quello che sta accadendo, perché si tratta di difesa, cioè del futuro della NATO. Sempre il destino non fa le cose per caso, perché Donald Trump in un'intervista al Washington Post ha messo in dubbio non tanto l'impegno americano nella NATO, ma il fatto che per gli Stati Uniti si tratta di un esborso finanziario notevole, e questo è una novità, diciamo, nella campagna elettorale americana. Perché? E beh, perché gli Stati Uniti non hanno mai messo in discussione ovviamente lo strumento della NATO. Per la prima volta emerge invece una preoccupazione. Ora, voi dovete sapere che la NATO, dopo l'11 settembre 2001, ha trasformato la sua missione, diventando un forum di cooperazione internazionale, guarda caso, contro il terrorismo. Per cui le parole di Trump al Washington Post sono molto significative, non vanno prese con le pinze, perché una diminuzione dell'impegno americano nella NATO significherebbe di conseguenza, visto quello che sta succedendo, quindi capite che unire i puntini degli eventi è molto importante, certo, significherebbe un maggiore impegno economico e non solo, diciamo, di tipo materiale, persone, intelligence e così via, anche dell'Europa. Quello che sta accadendo ora a Bruxelles ci dice che c'è necessità di coordinamento e non di disunione. Diciamo che l'intelligence è messa a dura prova e non sta dando grande prova di sé in nessun paese. Forse dovremmo quasi rivalutare la nostra di intelligence. I nostri sono sempre stati molto bravi. Adesso sostanzialmente siamo in difficoltà, cioè questo tipo di terrorismo richiede evidentemente un'intelligence che non è fatta solo di droni e di tecnologie, ma è fatto di scarponi, elementi umani, come sempre. Infatti il drone nulla può fare con questo tipo di aggressione. Il fatto è totalmente militare. È totalmente militare, e per arrivare quindi alla consapevolezza di un'azione è necessario innanzitutto avere chiaro i confini della sovranità e stabilire quindi chi può entrare e chi non può entrare. Chi decide cosa e come muoversi all'interno di questa sovranità. Bisogna una volta per tutte chiarire che nello scacchiere internazionale, dove comunque ci sono le nostre vite, dove abitiamo con le nostre famiglie, le nostre storie, c'è l'urgenza di avere chiaro un fatto: che il nemico ci aggredisce in una forma subdola dove necessariamente bisogna intervenire militarmente, e quindi significa che se esiste per esempio l'Italia, dato che l'Europa non esiste, allora l'Italia si deve garantire uno spazio di manovra dove garantire la sicurezza a tutti, perché quando si fanno i porci comodi di affari e di patti con chi sta, con chi finanzia e foraggia il terrorismo, dire una volta per tutte che sicuramente l'Italia dovrebbe come minimo rompere i rapporti diplomatici con coloro i quali finanziano il terrorismo. E se in Europa questo discorso ancora non attecchisce, comunque cominciare a dare l'esempio, perché i confini nostri, ricordiamolo, sono a pochissima distanza con l'autoproclamatosi califfato dell'ISIS, perché le porcherie che si consumano in Libia sono conseguenze di strategie volute anche dall'Europa. Mario, c'è ancora una cosa? Ma allora, tutto da prendere e ancora da confermare, però cominciano a piovere delle notizie che dicono che c'è un altro attacco alla metro, sarebbe il terzo, vicino all'ambasciata americana. Adesso vediamo, questo è tutto da confermare. Intanto lasciamo il racconto successivo di questa vicenda al giornale radio, che naturalmente alle 10 farà uno speciale, continuerà con uno speciale, cioè non ci sarà oggi la storia di Mix 24, perché lo spazio sarà del telegiornale. Pubblicità. Mix 24. Naturalmente lo speciale del giornale radio comincerà alle 10, noi intanto continuiamo con gli aggiornamenti. Le borse come vanno, Mario? Sì, naturalmente c'è anche questo aspetto, stanno accentuando le perdite e vanno molto male soprattutto i titoli delle compagnie aeree e delle società legate al turismo. Ovviamente Lufthansa faceva meno 3,4, Air France meno 4,9, Ryanair meno 3,7, Accor 5,22, chiaramente c'è anche questo, e le notizie che stanno arrivando da Bruxelles sono pessime, perché gli attentati alla metro sono gravi. Sì, stanno arrivando delle immagini di gente in fuga al buio nei binari della metro. Sì, è un attacco coordinato. Ecco, c'è di interessante valutare la modalità, per quello che se ne sa, della collaborazione che sta avendo Salam con la polizia francese, no, belga, anzi non vuole andare in Francia. No, che è strana questa sua disponibilità a collaborare per la sua estrazione. È strana, e ovviamente facendo la tara con tutte le notizie che non possono essere date obiettivamente, ma sono sempre vincolate giustamente dai margini che vuole la polizia in questo caso, se fosse sincera confermerebbe anche la natura totalmente anarcoide e ancor più pericolosa di questi elementi. Quindi non più un progetto strategico ideologico, ma un impazzimento che è ancora più pericoloso. Però il fatto che lui abbia deciso di non farsi esplodere all'ultimo momento, beh, vuol dire che insomma c'è nella testa di questi kamikaze, poi però alberga anche una umanità diversa, insomma una voglia di vivere. O forse l'istinto di sopravvivenza, certamente una bestialità pericolosissima, su cui ancora una volta mi ripeto, al di là del raccogliere le informazioni, richiede ancora una volta urgentemente una risposta militare. Certo, Alfonso ci dice meno male che c'è Trump, viva Trump, giusto antidoto. Beh, ma insomma, stiamo andando verso gli estremismi. No, non lo so, non sarei così entusiasta. No, neanche io, ma leggo quello che ci scrivono ognuno ha la sua opinione. Ma dunque, allora, adesso la situazione è che tutta l'area delle istituzioni europee è stata praticamente chiusa, il traffico deviato da Rue de la Loi, e si sta cercando di capire come soccorrere le persone, perché ci sono parecchi feriti. Questi sono i dati che stanno piovendo da questa mattinata drammatica. Emerge, devo dire, uno stato di confusione delle istituzioni, delle istituzioni di fronte molto a questi attacchi plurimi. Intanto il giornale radio chiede la linea, e lo special del giornale radio delle 10 passo la linea a loro. Grazie, a domani.